Grazie, grazie a tutti voi di essere qui in questa sala piccola ma molto intima. Ringrazio il professor Dobrilla perché è merito suo, è capace di richiamare l'attenzione di tante persone interessate e di fare un servizio proprio civile per il bene e per la salute di tutti noi, costantemente nel tempo, attraverso vari canali, libri, interviste, conferenze, oltre che chiaramente ancora essere attivo con la sua preparazione scientifica. Da anni fa parte della nostra programmazione come biblioteca per aiutarci a capire come muoverci nel districatissimo mondo, nel complicatissimo mondo della medicina. Paolo, lascia pure lì, per piacere, Paolo, lascia pure lì, guarda, a me abbiamo iniziato, non... Grazie. Bene, scusate, la sala è un po' stretta. No, sopra è occupata per una mostra, sotto idem, e purtroppo questi sono i nostri piazza, sì. No, nel parco dei cappuccini. Bene, allora. Stavo dicendo che il professor Dobrilla da anni accompagna anche la biblioteca con la sua programmazione e sempre all'insegna della conoscenza, ci fornisce degli strumenti per muoverci in questa selva della medicina, anche fra di te, di queste improvvisazioni che a volte ci passano con queste fake news attraverso anche i canali social. Ci aiuta e lo ringrazio tantissimo perché nella sua generosità riesce ad aiutarci e a comprendere, evitando soprattutto degli errori madornali e molto difficili da rimediare poi. Non vorrei aggiungere altro se non una cosa: imparare dagli altri, no? C'è sempre da imparare dagli altri, ecco, cioè era già stato in parte pubblicato via mail, via online. Scusate, ma mi disturba un pochino questo movimento. Ecco, speriamo adesso sia finito. Bene. Nella primavera dell'anno scorso, quando ancora eravamo in pieno Covid, ecco, abbiamo avuto il piacere di poter mandare online un intervento del professor Dobrilla. Il tema era sempre legato a un libro, sempre la prima edizione di Imparare dagli altri, e quindi queste suggestioni di immagini, di frasi, di aforismi di vari personaggi che nel percorso, nello studio del professor Dobrilla l'hanno colpito, ma anche aiutato a muoversi e a crescere e ad ampliare il proprio pensiero. Bene, ero la settimana scorsa a Lucca e si parlava della digitalizzazione. Ormai abbiamo capito tutti che l'apprendimento è veicolato sempre da delle emozioni, no? C'è un aspetto emotivo, emozionale, ma nessuno mi aveva mai spiegato che l'apprendimento è anche qualcosa che è legato a un contesto molto preciso, fisico, e quindi noi siamo aiutati dagli strumenti digitali che ci aiutano sicuramente a individuare un maggior numero di informazioni, ma poi la nostra memorizzazione implica una geolocalizzazione, cioè noi dobbiamo sempre essere molto fisicamente coinvolti da quello che stiamo apprendendo, anche se nessuno ce lo trasmette, quindi anche il pezzo di carta e la sottolineatura, oppure una persona che ti racconta, che lo narra questo concetto, te lo esplicita e te lo trasmette con convinzione, e incidono molto di più anche nei processi astratti e nelle cose più complesse, ci aiuta. Quindi ringrazio il professor Dobrilla perché questa sera ci aiuterà di nuovo, ripercorrendo alcune tappe, a trasmettere dei messaggi positivi e che ci aiutano ad aprire la nostra mente, ma soprattutto in presenza e attraverso ancora degli strumenti, diciamo, analogici, che possono aiutarci a comprendere meglio, ma soprattutto a fissare meglio nella nostra memoria i concetti che ci racconterà e ci trasmetterà. Grazie, non dico altro se non che abbiamo le cartoline con i prossimi inviti, per cui se avete piacere, in biblioteca succede sempre qualcosa ogni giorno. E la prossima settimana ne abbiamo parecchie di cose, se vi iscrivete riceverete gratuitamente tutte le informazioni. Grazie, grazie. C'è un microfono oppure no? C'è un microfono? C'è un microfono? Cercherò di urlare di più perché sono basso di voce. Allora, prima di tutto grazie agli intervenuti e grazie alla Valeria Trevisan che è sempre attiva nel far cultura in città. Far cultura è difficile e annoia. Fatto questa premessa, il libro, due flash per la natura del libro. Comincio con la prefazione. Ettore, perché non ti metti qua? Che vedi? No, guarda, vedi, guarda, sei più comodo. Vabbè. Dice il direttore del giornale che ha apprezzato anche la prima versione del libro, la storia maestra, ma se c'è una guida come Giorgio a indicarci il sentiero, il cammino si fa meno incerto. In realtà non è Giorgio che indica il cammino, sono coloro che hanno fatto gli aforismi. La seconda, questo è un grande giornalista che scrive, vice direttore della Stampa per anni, è un astrofisico talmente importante, scientificamente di estrema verità, che gli hanno dedicato addirittura un satellite. E scrive, l'autore commenta nel volume, frasi che contengono un pensiero profondo che gli deriva dall'esperienza di vita. Anche qui non faccio altro che il comunicatore di gente che ha fatto la saggezza, io sono un riportatore, semmai il commento glielo dopo. Infine, l'introduzione di Piero Angela, vi dirò con una certa commozione che la casa editrice avrebbe voluto avere la sua prefazione, mi ha fatto già 5, 6, 7 prefazioni ai libri precedenti, ai 30 anni che eravamo prima, lo consideravo solo un maestro, poi siamo diventati amici. E questa volta, quando mi ha invitato a sollecitargli una prefazione, un'introduzione del libro, io gli ho detto, si sono fatti dare la parola che lo avessi fatto, l'ho chiamato e vi assicuro confidenzialmente, l'ho invitato caldamente a rifiutare di farmi un'introduzione perché era già molto malandato. Si è addirittura incavolato e 48 ore dopo mi ha fatto questa introduzione. Quindi mi commuove l'idea di questo che, pensate che si chiama come Piero Vannucci, quello della Stampa, io scrivevo in anteprima le robe loro, scrivevo cari Pieri e a un certo punto ho scritto solo caro Piero perché Angela se n'era andato. È in suo onore che vi presento questo piccolo filmatino di 2 minuti che è un'intervista che mi ha fatto Piero Angela in una trasmissione di Super Quark relativo ai poteri, cosiddetti poteri taumaturgici di Rasputin. Mi dice il mio esperto che bisogna aspettare un po' prima che parta. Crediamoci. Torno indietro. Eccolo. Proviamo adesso. Buonasera professor, buonasera. Lei è esperto in metodologia clinica. E come si spiegano i successi di Rasputin sul piccolo Alessio? Allora, le spiegazioni possono essere due. Se è vero che il bambino riceveva una terapia con aspirina, di cui allora si ignorava l'effetto anticoagulante, antiaggregante sulle piastrine, e quindi favorente l'emorragia, diciamo, allora la sospensione da parte di Rasputin dell'aspirina aveva un effetto immediatamente positivo, cioè non prolungava l'emorragia di cui soffriva. Anche i dolori diminuivano perché l'emorragia significa gonfiamento, rigonfiamento delle articolazioni, dei muscoli, delle parti molli, cosa che suscita dolore. Sospendere una cosa che peggiora questa situazione migliorava inevitabilmente i disturbi del ragazzo. L'altro aspetto è quello psicologico. L'altro aspetto è quello psicologico, che però non è soltanto suggestione come si pensava una volta, ma è un effetto che sollecita la risposta del corpo umano, del soggetto, in particolare del bambino che si fida di colui che lo consiglia, significa reazione del suo sistema nervoso con produzione di molte sostanze che hanno un effetto antidolorifico e si chiamano endorfine, di sostanze come la serotonina che migliora lo stato dell'umore, della levodopa che migliora altre cose. Non esiste soltanto un'unica risposta placebica, ma più risposte placebiche. Del resto, anche quando qualcuno ci fa arrabbiare, ci diverte o ci fa piangere, provoca delle reazioni chimiche nel nostro corpo, analogamente quando qualcuno ci tranquillizza. Non c'è dubbio, c'è la base biochimica di molte delle nostre emozioni. Le emozioni positive avranno un effetto positivo e le emozioni negative hanno un effetto negativo che potremmo chiamare, per fare il pandan con l'effetto placebo, effetto nocebo. Senta, a proposito dell'energia che esce dalle mani, questa pranoterapia non è mai stata dimostrata. Ormai sono anni che si studia questa cosa per dimostrare che non esiste dimostrazione che esiste questa energia. L'energia non esiste. Ha ripreso vigore questa teoria quando c'è stato l'effetto Killian, questo fotografo russo, che dimostrava che le mani avevano un'aura positiva messe su una certa piastra, ma se lei invece che la sua mano di uomo mette una mano di legno o di metallo, ottiene la stessa aura positiva. Ultima cosa, questi personaggi a volte poi finiscono per diventare dominanti e influenzare molto le scelte delle persone anche in altri campi. Non c'è dubbio, il suo successo di terapeuta, di mago, dotato di poteri soprannaturali quasi, si parlava addirittura di immortalità a un certo punto della sua vita, è chiaro che lui ha sfruttato questo per influenzare profondamente la corte, in particolare la zarina Alessandra e quindi suo marito, suscitando grossi contrasti a livello politico. E questo avviene ancora oggi, misura maggiore o minore, per quanto riguarda il rapporto che il paziente ha con i pranoterapeuti o comunque con i maghi e i guaritori. Grazie professore. Fatto questo doveroso ricordo che per me ha avuto un valore particolare, un piccolo extra libro prima di introdurre il libro. L'Ucraina e la guerra e il dramma non era ancora sviluppato quando il libro era in stesura e quindi lo devo fare come commento extra libro. La guerra, per dirvi solamente una considerazione che spesso sfugge, la guerra ha oscurato la pandemia. Ora, se la pandemia è stato un dramma per tutti, immaginiamoci la diffusione del virus e le conseguenze in un territorio che è in guerra, che la gente vive ammassata nei rifugi. Di questo non si parla più, non c'è nessun giornale radio a vostra esperienza che, parlando dell'Ucraina, ci dice qualcosa anche su come va la pandemia, che può portare anche a morte, soprattutto gli anziani, i defedati eccetera, popolazione che aumenta enormemente in condizioni di guerra. Non ho idea, dice Albert Einstein, non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza guerra mondiale, ma la quarta guerra sarà combattuta con i bastoni e con le pietre. Non l'ha detto uno che passava per caso, l'ha detto Einstein, e l'ha detto Einstein quando ancora non aveva sentore del bordo, del limite a cui stiamo arrivando in questi giorni. Quindi da questo punto arriviamo a questa, poi invece che continuare a salire almeno eticamente torneremo ad avere come armi le, e speriamo di no. A dichiarare la guerra, dice Silvana Stremmi, che non conosce nessuno, ma è una fulana che vive in Canada da emigrati, che fa la giornalista, e dice: a dichiarare la guerra sono i potenti e gli ultraricchi, a combatterla e a morire sono i comuni mortali. Anche in questo momento, no? Ci sono armi, ma a morire sono gli ucraini. Solo una minima selezione dei dittatori che svolge, questa è una selezione infinitesima. Dovremmo andare nella storia a trovare gente che ha solo fatto successi e si viene ricordata nei libri di storia e avendolo fatta pagare a dei poveretti. Qui ce ne avete quelli più celebri, più recenti, Gheddafi, Pinochet, Hitler, Stalin, Mussolini, quel pagliaccio della Corea del Nord, ma pericoloso, e Putin stesso. Da ricordare che Putin, lo vedete dopo una fotografia, in uno dei documentari, delle interviste recenti, si è fatto il segno della croce avendo vicino l'ortodosso, Cyril, che ha giustificato, come sarà detto dopo, ha giustificato la Chiesa perché in Ucraina ci sarebbero gli omosessuali. Ricordiamocene queste cose, perché le sappiamo ma poi ce le dimentichiamo facilmente. perché quasi niente quanto la guerra, dice una persona per bene, che ha fatto il suo mestiere in maniera dignitosissima, niente come la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo. Per commentare questo ho scelto, mi ha fatto, quando le ho scelte avevo la pelle d'oca di questo bambino in Siria, in cui il padre è senza una gamba e solleva al cielo un bambino che ha perso braccia e gambe, perché quando ce li ha è morto i due, il missile ha ucciso tre, questa è la realtà ancora, e questo bambino sorride, è bastato l'abbraccio del padre per fargli venire il sorriso. E i jihadisti bambini, perché i jihadisti sono armati e li si insegna a uccidere con armi pesanti vendute dai paesi occidentali o dai paesi orientali che commerciano in armi, cosa di cui non ci si ricorda mai. Esempio di come c'è un'amnesia e non se ne parla mai, perché siamo travolti da Vasco Rossi, dai pacchi, dalle cose. Per carità, guai se non ci fosse l'intrattenimento e il divertimento nella vita. La vita va vissuta con piacere e i piaceri vanno cercati, favoriti, ma non a prezzo di un'amnesia totale. Questo l'ho messo perché io stesso sono rimasto colpito che nel 94 era avvenuto questo genocidio, di cui solamente i più vecchi si ricorderanno, ma quelli di età media e inferiore non se lo ricordano. In 100 giorni c'è stato 1 milione di morti. In differenza di ONU e Occidente non se ne parlava ogni giorno Zelensky, ogni giorno questa. Guerre di serie A e guerre di serie B. Pacchia per i produttori di armi, perché più guerre sono, più della gente si arricchisce in maniera impressionante. Guerre nel mondo extra Ucraina, entro giugno di quest'anno, un bilancio grossolano sicuramente in difetto, sono 59, ma noi sappiamo che c'è solo la guerra in Ucraina. In Iraq, in Nigeria, in Birmania, Siria, Etiopia, Yemen. In Yemen ci sono delle stragi di civili, di robe pazzesche, nessuno se lo ricorda più. Meglio girarsi dall'altra parte. Bene, torniamo al libro. Diviso in capitoli per i problemi esistenziali che tocchiamo tutti, e vi posso confidare che quando ho cominciato a farlo non avevo nessun preconcetto, mi lasciavo andare a quello che faceva pensare l'aforisma e poi avrei tirato delle conclusioni. Allora, la prima, che è stata già proiettata nella prima edizione del libro, è che la malattia è un avvertimento che ci è dato per ricordarci cosa è essenziale. Sembra banale, ma è l'esperienza di tutti noi che basta un minimo malanno per rovinarci la giornata. E diciamo basta la salute, però ce lo dimentichiamo, lo diciamo ma ce lo dimentichiamo. La salute è al primo posto, perché senza salute la nostra vita, vivremo 40, vivremo 60, è un dramma senza salute. E lo sa chi ha una malattia cronica, un'artrite reumatoide, un deficit immunitario, è una vita fatta soltanto di pietà e la fortuna di avere qualcuno vicino. Chi a qualsiasi ora tu venga troverai chiarimenti e umana gentilezza. La dobbiamo a Albert Schweitzer. Sapete che lui era protestante, ma era favorevolissimo alla fusione delle religioni cattoliche, cristiane. È andato a Lambarene nel 13 e l'ospedale era questo qui, questa targa era applicata sul muro di questo primo ospedale di Schweitzer, Lambarene. Quando se n'è andato, dopo tanti anni, e in questi tanti anni poi si è beccata la tubercolosi, assistito da sua moglie tubercolotica, anche lei, sono stati arrestati dai francesi, andati in Francia, grande musicista, tra l'altro, grande pianista, è ritornato comunque a Lambarene, e quando se n'è andato, nell'ospedale da lui creato con contributi internazionali, c'era un laboratorio, medicina generale tropicale, chirurgia, ginecologia, pediatria e psichiatria. Ha dato la vita perché questo avvenisse in un paese lontano del suo, ricordandosi che se uno crede in qualche cosa, crede anche in questi qua. Terapia auspicabile nel pronto soccorso non c'è, e non c'è non solo perché sono cattivi e brutti, ci sono anche i cattivi e brutti anche in pronto soccorso. Un po' di umanità e un sorriso non si nega a nessuno, ma sono anche travolti da eventi grandissimi. da fronte di malati che devono essere studiati, capiti, c'è il psicopatico, c'è quello che non ha niente, c'è quello che ha vabbè, discriminare il pronto soccorso, spesso sta targa non c'è, ma è difficile che ci sia anche per difficoltà oggettive. Ascolti il tuo paziente, è lui stesso che ti sta dicendo la diagnosi. L'ha affermata William Osler, grande medico canado-inglese, e lo vedete che i presupposti di questa sua asserzione sono fatti di etica e di utilità. Di etica perché bisogna saper ascoltare uno che ti dice che sta male, devi capire che cosa c'ha, col linguaggio che questo ha. Se io faccio l'anamnesi di un contadino della Valle d'Ultimo, devo usare un linguaggio diverso da quello che faccio intervistando un amico che sta bene. E poi anche utilità, perché se faccio un'inchiesta rispettosa dei disturbi lamentati, riesco anche a capire meglio come diagnosticare, come prognosticare e come fare una terapia. Non sempre basta la ripetizione, lo dico perché qualche volta è invalso nell'uso anche questo, non perché la cattiveria del medico di base, che spesso è un galantuomo anche lui, ci sono anche le mele marce, ma ci sono delle mele marce anche qui, tutti abbiamo delle merce, tutte le categorie hanno dei bravi e dei meno bravi, è che è invalso l'uso della ripetizione della ricetta fatta attraverso la segretaria. Se il medico fa una diagnosi, un'impostazione, un profilo terapeutico, questo resta per mesi e ogni volta il malato, complicandosi le cose con il lockdown eccetera, va, deve andare uno alla volta, c'è la segretaria che si fa dare la ricetta, gli ritornerà dopo. Quindi è difficile anche che il contatto personale visivo, il paziente ha bisogno di sentirsi mettere una mano addosso, se non sempre la ripetizione può essere giustificata. Uno prende una medicina per calare l'appetito se anche non viene visto nei 5 minuti, ma ci sono altre cose che richiedono una modulazione terapeutica. Morte vecchiaia, questa è toccante, dico robe che hanno toccato me, naturalmente ogni volta che li vedo, però penso di esserci abituato un po' e riprovo sempre alcune sensazioni. Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. L'ultimo volto può essere la madre, può essere l'amante, può essere l'amore, può essere un figlio, può essere un parente, però quando si muore l'idea di avere una mano da tenere prima di scomparire dalla terra, questo lo diceva William Shakespeare, che era abbastanza esperto di drammi personali. E pensiamo che questa triste teoria di camion militari che portarono via dal grande cidio pandemico di Bergamo, tutti quanti sono morti senza aver nessuno a cui stringere la mano mentre morivano. Non parliamo di questi anonimi annegati in mare. Io non entro in termini di politica, è difficilissimo fare eccetera, parlo soltanto in termini umani. Il balcone si rovescia, vediamo se queste maniche su muoiono. Questi non solo non hanno visto una mano che li aiuta, hanno avuto anche il terrore di sapere che la morte sarebbe stata vicina. La vecchiaia è un problema inesorabile, inevitabile, accettabile, non possiamo farci niente. E l'anziano però ha degli impulsi, delle emozioni che continuano a esistere, anche amorose. C'è ancora la bellezza di un bacio, la bellezza di una conversazione con l'amico. Quindi c'è l'anzianità non esclude, non cancella le nostre pulsioni emotive. E una delle cose più tristi che mi ha colpito, questo è talmente ovvio che potevo anche saltarlo, ma una delle cose che mi ha colpito è la disattenzione dell'anziano. Dice: a rischio solitudine anche in una famiglia che per il resto è premurosa, ma non lo ascolta più. Uno è stato un Vangelo, è stato ascoltato per tanti anni, si pendeva dalle sue labbra, si arriva a un certo punto che tutti gli altri giovani mettono il ballo da una parte e lui sta là e si sente assurdo. E questa è una delle cose meno incisive da un punto di vista della salute o della mortalità, ma più penose per il vecchio: non essere più ascoltato dai familiari e dagli amici. Un uomo vecchio, per alleggerire anche una vignetta che fa sorridere, è un uomo vecchio solo quando i rimpianti di lui superano i sogni. Lo ha detto anche quel mamaluco di Einstein, e dice: i sogni sono positivi, se uno è positivo dentro, si guarda nello specchio da vecchio, si rivede ancora giovane. Questo è una cosa positiva, perché anche nell'anziano ci sono dei momenti di giovinezza e i ricordi possono essere estremamente positivi per invecchiare. Quando invece uno pensa tante cose in queste condizioni, è meglio che si giri dall'altra parte. Amore, amicizia, passione, matrimonio. Il cellulare tiene vicino, fonti multiple, tiene vicino chi è lontano e lontano chi è vicino. Si è protestato tutto, lockdown, non si può uscire, non si può eccetera, ma guardate questa tavolata qui, in tempi di libera uscita, ci sono quattro coppie, uno di fronte all'altro, ciascuna coppia ha un cellulare in mano. Invece che passare una serata tra amici discutendo di qualche cosa, di frivolezze, di sesso, di Inter, Milan, di quello che volete, si guarda, non parla nessuno e guardo lì. Che bello questo, c'era una volta, quando si rimorchiava, si faceva un corteggiamento, si rubava un sorriso e si sperava negli sviluppi positivi di questo rapporto. Questa è molto importante, perché è vera, è doloroso riconoscerlo, ma è vera. Statisticamente vera, non per tutti. Quando si ama, anche la gassosa sa di champagne. Quando non ci si ama più, anche lo champagne sa di gassosa. Sensazione è che le gassose in questi ultimi tempi sembrano in auge, ma forse è sempre stato così, perché è importante questo che è detto da un filosofo triestino: la manutenzione di un amore vale più dell'inaugurazione. Inaugurare è facile, mantenere l'entusiasmo e i sentimenti è difficile, perché ci sono mille problemi che si interpongono, non soltanto così. È automatica e richiede molta attenzione. Non si può pensare che ci si ama domenica 20 gennaio e ci si amerà nella stessa maniera tutta la vita. Invece è possibile, ma è possibile solo se si fa manutenzione di questo amore. È bellissima questa vignetta. Non è molto quello che ti sto per dare, il cuore, è tutto quello che ho. Sì, ma questo deve valere per sempre. E come tutte le cose, la perfezione non è di questo mondo. Si va da 0 a 100, ci sarà un amore anche passionale che dura tutta la vita, ci sarà degli amori multipli che però tutti hanno avuto un significato. Prendete, che so, Chaplin, no, ha sempre vissuto storie importanti, ma le ha vissute fino all'ultimo. Pablo Picasso ha avuto tante storie più o meno anche ridicole, anche deteriori, però fino all'ultimo è stato uno che ha amato. Lettura, cultura, ignoranza. Viva la Biblioteca Provinciale Italiana, perché se è vero che la cultura è importante, questo è un centro, lo dico non per fare i complimenti alla direttrice, ma effettivamente qui c'è cultura, e c'è cultura anche italiana. La cultura non dovrebbe essere né italiana né di niente, però visto che siamo qua, insomma, che ci sia anche qualcosa di italiano, che è come quando vinciamo il mondiale dei 100 metri, insomma, no? Un po' di orgoglio c'è, senza che sia sciovinismo. E guardate, la considerazione di questo viene fatta da due personaggi distanti tra loro di 2000 anni. L'ignoranza è la radice di tutto il male. Platone, 347 avanti Cristo. Niente è più pericoloso dell'ignoranza, Goethe, 2000 anni dopo. In questi 2000 anni abbiamo imparato qualcosa? L'Homo sapiens ha imparato qualcosa? Quasi 2000 anni di saggezza buttati al vento dall'Homo sapiens, oppure un'ignoranza molto spesso comoda al potere, ma rischiosa, perché al potere, fin tanto che non c'era il pericolo nucleare, si poteva pensare, sperare a qualche cosa di potere, ma quando in campo c'è anche la possibilità ventata, non penso che sia probabile, ma certamente non è impossibile. Questo in 2000 anni non abbiamo imparato nulla. Pericoli dell'ignoranza non sono astratti. Ignoranza più religione, lo sappiamo, Iraq, Afghanistan, più religione, terrorismo. Ignoranza più potere, tirannia vera, appariscente o mascherata. Ignoranza più libertà, soprattutto dissolutezza, è caos. Ignoranza più ricchezza è corruzione, inevitabile. Il potere corruttivo che ho io non è il potere corruttivo che ha Trump. Ignoranza più povertà è uguale crimine, perché quando si è poveri, quando manca anche il minimo per mangiare, si è più portati a cedere a delle tentazioni, a delle scorciatoie della vita. Non era del tutto d'accordo Goering, Quando sento qualcuno parlare di cultura, la mano corre al revolver. Teatro dell'Opera di Berlino, 1933. 2 anni dopo nascevo io, ahimè. Il rogo di libri, il Bücher Verbrennungen, in Berlino è stato di 25.000 volumi bruciati in un giorno, ma in tutta la Germania milioni di libri. E cos'erano sti libri? C'era chi, c'era la Settimana Enigmistica, c'era la Gazzetta dello Sport, c'era gente come i due Mann, Brecht, Freud, Arendt, Fromm, Marcuse, Adorno, Wittgenstein, Zola, Remarque, Hemingway, Kafka, Marcuse, eccetera. Quindi si è bruciata la cultura del mondo in una notte. Scienza, pseudoscienza, informazione. La scienza qui stava già male, vedete che sofferente, sempre con uno sguardo buono, perché era un uomo buono e modesto, mai appariscente, non voleva mai apparire. La scienza prima verifica e poi parla. Non fidatevi solo delle opinioni, neanche delle opinioni di gente attendibile in altri campi, neanche di quello che vi sto dicendo io adesso. Cioè, pensiamoci, perché bufole strepitose sono state vinte anche da premi Nobel. E questi premi Nobel, scoperti nell'aver fatto delle bufole terrificanti, dopo ve ne dirò una sola, sono stati premiati da un'accademia autorevole chiamandoli premi Ig Nobel, che in italiano insomma premio ignobile. Non è detto che tutti gli Ig Nobel erano soltanto pazzi, perché qualcuno degli Ig Nobel ha preso anche il Nobel vero. Per esempio, nessuno lo conosce, questo Jem, che era di origine russa ma è vissuto poi nei paesi in Olanda, ha scoperto il grafene, che è uno strato monostrato di carbonio. Cioè, l'atomo di carbonio in uno strato, un atomo vicino a un altro, che ha rivoluzionato conduttori, semiconduttori, robe pazzesche. Lui ha preso il Nobel vero, ma prima si era preso l'Ig Nobel perché descriveva che le rane, le piccole rane, galleggiano su un campo elettromagnetico dentro le fesserie totali. Da notare che i premi Nobel venivano premiati con $1 e accettavano volentieri, qualcuno ma volentieri, altri accettavano. La disinformazione a cui siamo sottoposti giornalmente tutti, da tutte le parti, non da uno o dall'altro. Voi sentite, bastava l'attentato sul ponte, allora per gli ucraini erano attentati voluti dalla Russia, la Russia, no, non era, io ero danneggiato, l'ha fatta l'Ucraina. Insomma, non c'è collocazione politica. Questa scrive per il New York Times, bene. La distrazione di massa, ne abbiamo avuto esperienza, se vi ricordate, con la guerra in Iraq. Si è deciso, le potenze occidentali, di distruggere l'Iraq e di uccidere fisicamente Saddam Hussein, perché sarebbe stato un po' rosso, un po' più che rosso, vicino all'Unione Sovietica. Hanno mandato dei commissari dell'ONU lì, non hanno trovato assolutamente le armi di distruzione di massa, il risultato è stato licenziata la commissione di inchiesta stabilita, realizzata dall'ONU. Senza contare che le armi di distruzione o non di massa non sono nate dagli alberi. Ci sono 10 paesi al mondo formidabili produttori di armi, sia in Occidente che in Oriente. 10, non più di 10. Come mai i terroristi in Uganda, come mai nello Yemen, come mai in Iraq, anche nelle tribù in Afghanistan, delle tribù che stanno ancora obbligando la donna a vivere nelle caverne, hanno le armi ultimo grido, ultimo modello? Ma l'ha detto anche il Papa qualche volta, qualche giornale l'ho anche riferito, ma è un discorso con cui dovremmo essere bombardati come gli oroscopi, mentre degli oroscopi siamo bombardati ogni giorno, ma di questo concetto che potrebbe risvegliare un certo sdegno nella popolazione, no, non siamo mai informati. Filosofia e società, dice Bertrand Russell, altro cervello meraviglioso che c'è tra l'Homo sapiens, questo è veramente sapiens, perché era Lord, perché era conservatore, perché era ricco, ma è stato sempre dalla parte della gente, partecipava ai siti, insomma lo conoscete meglio di me. Bene, e lui ha detto, la causa dei problemi è che al mondo d'oggi gli stupidi sono strassicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Io ho molto frequenti conversazioni con il mio amico ha detto da fare il pane di pomeriggio quando siamo incazzati un po' con le cose, e ci diciamo spesso queste cose qua. Abbiamo dubbi quasi su tutto, e metterci sono delle persone che sono sicure su tutto. Non solo i tempi di oggi, dice oggi, ma forse è sempre stato così. A Trieste c'è una bellissima locuzione dialettale: la mamma dei Mo la sei sempre incinta. È stata tradotta in varie cose, ma questa mi pare più carina. Poi, sempre per rompere un po' l'atmosfera seria, dice: l'obbligo che abbiamo comunque, travolti da malattie e problemi, abbiamo però bisogno di avere dei momenti di felicità. Quale che sia questa felicità, a uno le piacerà il biliardo, a uno le donne, a uno la lettura, ma bisogna ricavarci uno spazio che ci rende felici. E dice Borges: ho commesso il peggior peccato, diventando vecchio, che un uomo possa commettere. Non sono stato felice, nella mia vita non sono stato felice, l'ho sprecata senza avere un attimo di felicità. E lì la battutina: felicità certo non è solo quello nella vita, ma chi è senza peccato si sbrighi che ormai avete una certa età. Mahatma Gandhi, uno dei più rivoluzionari esseri del mondo, che non ha mai sparato un colpo ma ha creato l'indipendenza dell'India, non gli è riuscita molto bene visto che l'India è ancora un paese in cui le caste sono pesantemente presenti, comunque l'ha liberata dalla schiavitù britannica, e dice: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Tutto sommato è un problema che ci riguarda anche noi. Se possiamo fare una cosa, la facciamo, pensando che potrebbe capitarci qualche cosa che volevamo fare e non siamo più in grado di fare. Allora carpe diem, dicevano i latini, seize the day, in inglesi, e nutze dentag, i nostri amici sudtirolesi. Grande verità, umile e insistente motto di mio padre, cosa fatta capoà. Papà non era molto istruito, ma è una frasetta che va in linea con tutte le altre. Non è vero, e questo ci sta un po' di critico a tutti quanti, penso, non è vero, perché tutti quanti troviamo delle scuse: sono stanco, sarò con voi, sì, ma domani faremo. Non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne sprechiamo molto. Questo è un punto centrale, e bisogna avere il coraggio, non è facile, tantomeno per il sottoscritto, sono sempre dentro i difetti mentre parlo, non è facile, ma non sprecarlo. Pochi lo ricordano questo motto di Seneca del 65 d.C., e per esempio dovremmo evitare le ciacole, non parlare tanto per parlare, che spesso è tanto per sparlare, dell'uno o dell'altro, pensare almeno qualche volta. E oggi, per esempio, alcune stratagemme piccole, facile da dire, ma difficile anche queste da fare: non abusare dei cellulari e degli auricolari. Se io voglio dire buon compleanno Ettore, ma perché non devo chiamarlo per telefono e dirgli auguri? E devo mandargli un SMS, un WhatsApp? No zapping. Non conto la televisione, ma che la televisione sia scelta: voglio vedere la partita, voglio vedere l'indovinello, voglio vedere Talent Scout, lo voglio, lo guardo. Ma tenerla aperta per non guardarla è un aggiungere una rumorosità anche alla nostra intimità. E non spegnere la conversazione alla lettura, quella si spegne facile, la conversazione si spegne spesso alla lettura, ma i telefonini no. Sintonie con Bertrand Russell nel libro Alla ricerca della felicità, e queste sintonie avvengono dopo 2000 anni da Seneca. Anche qui la dimostrazione è che l'intervallo temporale non modifica la pazzia dell'uomo. Politica e storia, leggi. Le leggi sono, ma chi può mano ad esse? Anche questo non è uno sprovveduto. Dante Alighieri, che a parte la grandezza poetica era anche un grandissimo colto, è un grandissimo analista della situazione umana, e dice che poi anche se fatte nessuno le applica. E io commento così: caro Dante, qualche volta le leggi ci sono e sono anche ben applicate. Per esempio questa: il Consiglio dei Ministri delibera l'esclusione dalle scuole di tutti gli insegnanti ed alunni nati dai genitori di razza ebraica. Qui dentro 4-5 amici che ho sarebbero stati incarcerati. in questa sala, non sarebbero qui ad ascoltare. Queste sono state, queste hanno posto mano a questa legge, ma è un'eccezione assoluta, senza tener conto che poi, fatta la legge, abbiamo bisogno dei decreti attuativi per renderla operativa, perché se i decreti attuativi non vengono firmati, la legge resta lì, che galleggia nell'aria. Il parere di 10.000 uomini, Marco Aurelio, anche qui, no? Il parere di 10.000 uomini non ha nessun valore se nessuno di loro sa niente sull'argomento. Cosa vuol dire? 100 era d'accordo, 1.000 era d'accordo, ma 1.000 chi? Su quel determinato specifico argomento sono competenti? Perché se no è come se fra i 1.000 che sono d'accordo o no sulla funzionalità di un motore ibrido chiedessero il mio parere. Non saprei da che parte girare, no? Se pensiamo questo valore, che non votanti in Europa, in Italia, grosso modo, sono 40-50, vedete sotto alcune nazioni che ne hanno maggiore quota di votanti, se non votanti sono 40-50%, di quelli informati ne sono ancora meno, per cui i voti, a prescindere da chi lo diamo, sono dati in rappresentanza di pochissima gente. Cioè, i nostri parlamenti non è che rappresentano il popolo italiano, rappresentano il 20% del popolo italiano, perché o non vanno a votare o non sanno perché votano, questa è la realtà. Quanto è rappresentativo? Rappresentativo di quanto? Perché bisogna sempre fare, è come dire il 10% è tanto, ma il 10% è tanto se è un miliardo, il 10% di 100 lire è una lira. I ladri di beni privati passano la vita in carcere. La mela, l'arancia, il furto, il portafoglio, il borsello, passano in carcere. Quelli di beni pubblici, nelle ricchezze e negli onori. Ho fatto un conto in rete, 117 indagati condannati trasversali in tutti i partiti fino al 1912. In questi 10 anni successivi gli indagati sono stati di più. Cosa hanno pagato? Quasi tutti continuano ad avere il vitalizio, oppure la grande pena è massima frequente, è l'arresto ai domiciliari. Ma il domiciliare non è un monolocale di Viareggio, il medicinale è una villa catastrofica, con dentro tutto. Tanzi, dove insegnavo io nell'Istituto di Farmacologia, che ha qui un importante rappresentante di cui mi onoro di essere amico, la professoressa Guzzi, ne passavamo davanti alla casa di Tanzi e dentro c'era tutto, c'era il maneggio, c'era la piscina, sto arresto domiciliare. Verità, bugie, contraddizioni. Una bugia, qui in questo cerchio non si legge bene, ma c'è scritto frangi. Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Questa è la verità. Il gossip, la malignità, l'allusione, questa si espande, mi ha detto quello, mi ha visto quel con quell'altro. Ai tempi di Enner, per esempio, per dirvi, che è stato l'inventore del vaccino antivaiolo. Avevano messo in giro le voci, la stessa società accademica che era seccata che questo medico condotto di periferia avesse avuto l'idea geniale di vaccinare, siccome si vaccinava prendendo il siero dalle pustole dei mungitori di vacca che erano infettati, dice che chi si faceva il vaccino gli sarebbe cresciuto la testa di vacca. E questo ha bloccato il riconoscimento accademico. Soltanto dopo molti decenni è stato riconosciuto la grandezza di Enna, che non si è beccato neanche un riconoscimento tardivo. Senza leggere, questa è bellissima, quando l'ho visto mi è proprio piaciuta. Senza leggere e pensare è inevitabile, senza leggere, pensare e istruirci, è inevitabile che la cradumeria istintiva sia vincente. Perché se non pensi, se non hai un riferimento culturale, vivi di emozioni. Se sei infantile, capisco il bambino, ma il bambino cresce e resta un adolescente sempre che non sa pensare. Allora, se mettiamo due banchetti, uno con comforting lines, frottole confortanti, e uno verità sgradevoli, qui si fa la fila, qui non va nessuno. Succede anche oggi. Gli oroscopi è una dimostrazione. Ma non c'è giornale che rischi di non mettere l'oroscopo. per non perdere lettori. Ma quali lettori sono quelli che desiderano avere? Se sono così tanti da desiderare di leggere gli oroscopi, è bene che cambiamo stato, cambiamo pianeta, andiamo su Giove. No, però non c'è nessuno. Una trasmissione televisiva, una rete televisiva, alla mattina prima delle 7 fa girare gli oroscopi 3 volte, in cui quello che era stato fortunato in ricchezza e in amore il giorno prima diventa scaloniato nel giorno dopo. No. Allora sembra, tutti ridiamo, ma ci sono questi oroscopi? Corriere della Sera, Repubblica, il Tempo, il Giornale, Libero. Allora questa qua era bella, per molti, per moltissimi direi io, farsi prendere per quella roba che vedete là è una vera libidine. Sembra che essere presi per quella roba là piace, insomma. È meglio ammirare sinceramente un falso capolavoro che ammirare falsamente un vero capolavoro. Questa vede la Gioconda, che evidentemente non è originale perché è piuttosto generosa nell'esporre i suoi seni, ma gli piace sapendo che poi l'ha fatta un grande, eccetera, e si emoziona. Questa è vera emozione, questa non finge cosa stessa, prova dell'emozione. È meglio questa emozione vera su un quadro falso piuttosto che non entusiasmarsi, un momento nei limiti della critica artistica, piuttosto che entusiasmarsi per questo taglio di Fontana, perché se non ti piace non sei in. Sei un ignorante, tu non puoi dire a me non piace, sarà bravo, a me non piace, nessuno qua. Allora, meglio questo o questo, scegliamo. Preconcetti, fede e religioni, è più facile disintegrare un atomo che demolire un pregiudizio, vale per tutti, compreso il sottoscritto. Albert Einstein, anche lui, e dice che i pregiudizi sono sui disabili, sulla sessualità, che deve essere rigorosamente quella e non qualsiasi, se in buona fede, non parlo di scandali, è razzismo. Però l'eccezione c'è sempre. Se un disabile, un transessuale, un nero, eccetera, è bravo, è ricco e potente, lì vedete sotto alcuni nomi ben noti a tutti voi, velocista, la Paola Gono, il King, Morgan Freeman, Denzel Washington, Sidney Poitier, se arrivano a essere ricchi e potenti, osannati e vanno in televisione, allora la discriminazione non c'è, il preconcetto c'è, ma il preconcetto per il poveraccio resta fisso per anni. Quando non ci si aggrappa, dice Papa Francesco, alla parola del Signore, ma si consultano oroscopi, cartomanti e pseudoscienze, si comincia ad andare a fondo. Allora, questi sono gli oroscopi immancabili, questo è il divino tema. Però uno dice, beh, allora la religione si è resa conto che bisogna evitare questa roba qua, e quindi immagino che questo commento, questa frase di Papa Francesco sia condivisa da altri religiosi. Guardate questo, questo è il patriarca ortodosso Kirill I, patriarca di tutta la Russia e della Chiesa ortodossa, che ha benedetto e ha giustificato la guerra della Russia in Ucraina, perché la guerra è giusta, perché in Ucraina ci sono gli omosessuali. Quindi tra questo, il nostro patriarca e il patriarca c'è una certa differenza. Il bello è che il patriarca ucraino dice che è ortodosso di Kiev, dice che non è vero questo. Quindi è sto Dio slambricciato da tutte le parti. In un'occasione, lo vedete qui con la candela in mano, era l'occasione in cui Putin, con il Kirill primo a fianco, si è fatto il segno della croce. Ma io ci vuole anche un po' di impudenza, insomma. D'altra parte, tutti gli eserciti nostri, nazisti, non nazisti, avevano tutti il parroco che benediva le armi. Non dimentichiamoci queste piccolezze qua. Ricchezza e povertà. Questa la possiamo saltare. Allora, è anche una questione, oltre che filosofica, è anche una questione ambientale e caratteriale. Non c'è dubbio che esiste, hanno giustificazioni ambientali. Voi pensate, parlavamo prima con la direttrice, la differenza che c'è di una madre che ha 3 figli, il primo figlio e il secondo di mezzo è piccolo, hanno tutti 3 caratteri diversi, ma perché tutti sono nati in condizioni diverse ambientali. Il primo era l'unico oggetto di attenzione, il secondo sembrava che rubasse l'attenzione del primo, e il terzo anche. Quindi i caratteri sono, oltre che ambientali, anche genetici, ma non solo genetici, anche acquisibili. Bene, se uno è caratterialmente ottimista e ha una fetta di torta nel piatto ed è felice, si concentra perché ha una fetta di torta da mangiare. Nell'altra parte vedete uno che è infelice, vede, ha la torta in mano, gli manca soltanto una fetta, quindi molto di più della fetta che rende felice il primo, ma è infelice. Quindi ci si accontenta, no? Bisogna renderci conto di quello che abbiamo e non solo di quello che perdiamo o di cui siamo carenti. Ho finito in due diapositive. Non dimentichiamoci, queste cose mi soddisfano, nel senso che penso che quando vado via penso alla comunità, con un po' di amici, un po' di gente, e probabilmente siamo in gran parte d'accordo sulle storture che sono emerse da queste cose qua. Però ce le dimentichiamo facilmente. Allora, ricordiamoci ancora questo, esemplificato dal famoso urlo di Munch, che doveva essere ancora più tragico di così. Ogni 13 secondi un bambino muore per fame o per una malattia legata alla denutrizione. FAO, nel mondo muoiono di fame ogni giorno 24.000 persone. Potremmo sbagliare di 1.000, di 5.000. Nel mondo ci sono più di 700 milioni di uomini estremamente poveri che guadagnano meno di 1,9 dollari o euro al giorno. Uno al giorno significa 30 euro al mese. Devono vivere, mantenere figli, amare, cucinare, pulirsi. Elon Musk vale 219 miliardi di dollari e Bezos, Amazon per intenderci, 171 miliardi. Con la spedizione che hanno fatto per provare l'ebbrezza del volo suborbitale potevamo sistemare la Nigeria per 5 anni. Conclusioni. C'è sempre da imparare, ma per riuscire bisogna poterlo e volerlo fare. Bisogna leggere. Tutte robe difficili, nulla è facile. Leggere, ascoltare, difficilissimo. Pensare. Difficile. In triestino la locuzione è pensar fa mal di schiena. Ricordare, perché non basta leggere e ascoltare, bisogna ricordare. Se domani ci dimentichiamo quello che abbiamo annuito, su cui abbiamo annuito oggi. E poi la capacità di cambiare. Quando occorre è in buona fede, perché quello che saltella da un partito all'altro non è un cambiare, è un voltagabbana che serve per mantenere i vantaggi che si ha e non pagare dazio, ma è necessario la capacità di cambiare se siamo convinti in buona fede che va cambiato. E insegnare alla new generazione. L'insegnamento alla new generation è una roba difficilissima, perché le famiglie spesso, per difficoltà oggettive, non è un atto di accusa, è una fotografia che faccio, non educano nelle cose, educano il figlio a non macchiarsi, a non frequentare cattive compagnie, ma non si parla mai della vita. Io ho avuto una famiglia meravigliosa a cui sono legato, me la ricordo ogni sera, ma non ho mai parlato dei miei problemi, né amorosi né di studio. Se mia mamma gli chiedevo aiuto che non ho capito una cosa, diceva: affari tuoi, sei tu che vai a scuola. Latita questa comunicazione dei fondamentali nella vita, latita. C'è molta attenzione per cose che è giusto farle, ma che sono molto meno importanti delle cose fondamentali. Costa fatica, ma voi conoscete una cosa che vale da migliorare il rovescio a tennis a fare una scelta professionale diversa? È tutto difficile, è sempre difficile. E se siamo fortunati ci va bene, e se siamo sfortunati ci va male. Ultima, come diapositiva e anche ultima, la dea, spes ultima dea. Se dovessimo giudicare in base alla locuzione sotto di un politico italiano di tanti anni fa, pessimismo dell'intelligenza, sulla base di quello che vi ho detto, c'è da essere pessimisti. Dal punto di vista intellettuale c'è da essere pessimisti. Ottimismo della volontà, perché se ci troviamo anche la speranza, comunque sia irrazionale, che qualcosa cambi, che la pace a un certo punto Putin ceda, o che a un certo punto in famiglia non si facciano più spese assurde, insomma qualsiasi cosa costa fatica. Se razionalmente riteniamo che sia impossibile, però ci deve, e questo è l'augurio anche che faccio io nel salutarvi, ci deve restare nel cuore un pizzico spazio, un minimo spazio in cui la speranza esiste ancora e ci riesce a far campare con meno drammi. Vi ringrazio. Io sono qua. Se qualcuno vuole cosa dire. Se qualcuno vuole chiedere, di solito c'è la direttrice che dirige. È posto? Prego. Riguardo alla vecchiaia. Riguardo? Riguardo alla vecchiaia. La vecchiaia. Uno si guarda allo specchio e si vede giovane. E invece posto nel momento che si guarda allo specchio che si vede vecchio. Mentre dentro si sente giovane nel senso positivo della parola. Ma chiaro, se uno. Ma si vede dallo specchio, mio Dio, ma sono vecchio. Questa è un'osservazione ovvia, giusta e ovvia. È chiaro che se uno ha 80 anni e io mi guardo nello specchio, non posso vedere il Giorgio Dobriglia che vinceva nel 45 il torneo sociale. No. Ma è l'atteggiamento mentale. Io mi guardo e mi vedo meno male di quello che sono, e mi ricordo che ho anche tanti vantaggi, ho una moglie che cucina bene, che mi dice che devo tirarmi giù il gilet, insomma. Però è l'atteggiamento mentale, mi guardo nello specchio, vedo l'immagine reale, ma mi ricordo anche di com'ero e quindi mi ricordo di cosa piaceva. Questo è importante. Mentre l'altro rimpianto è un rimpianto inutile, perché è inutile che rimpiango di rincorrere la tennista con le mutandine svolazzanti. L'uomo è vecchio quando i pensieri sono i sogni, ma tante volte ci sono tanti pensieri positivi. Quindi se un vecchio ha pensieri positivi, bene li fa. Se pensa poi di realizzare questi sogni, non mi immagino che questo vecchio tira giù il bastone e salta addosso la. Giorgio, c'ha un sacco di domande da fare. Dimmi, scusi. No, niente. Mirko? No, ho salutato tua moglie. Ah. Che ne dice della sanità in Calabria? Oddio. Devo dire che ho un preconcetto. Le cose che nascono in Calabria mi lasciano sempre. L'unica cosa che mi pare, se non sbaglio regione, che mi dà tranquillità in Calabria è il procuratore della Repubblica. È il procuratore della Repubblica. E anche il tuo amico è il principale. Ma io la considero di Stoccarda, lei, scusi. Lei è atipico. Certamente, non saprei dire. Certo che non si. Ma quando si dice non è possibile la mafia, l'impiantazione, sono tutti problemi enormi, mi rendo perfettamente conto. A me quello che mi scandalizza è, se posso parlare in francese, mi scandalizza la presa per il culo. Sono problemi enormi, non è facile, perché io non ho mai provato a essere corrotto. Uno dice, guarda, se tu dici che sto farmaco fa bene, hai la villa in Sardegna e con piscina. Dire, io non avrei subito questo ricatto, lo dico, ma non ho mai provato. La mia debolezza e la mia forza, confesso, non l'ho mai provata. A me nessuno ha cercato mai di corrompermi in questo qualche tentativo di piccolo cabotaggio. Quindi io non dico che è facile, anche, è difficile anche rifiutare di essere corrotto. Se vuole un esempio personale, quando nella commissione unica del farmaco sono uscito dalla cosa, inedita questa, la dico stasera la prima volta, si avvicina uno, non so perché cosa, perché non so cosa ho detto, devo aver dato un giudizio che questa ditta riteneva che fosse positivo, ma io non so neanche qual è, e mi dà in mano un Rolex. Me lo dà in una carta normale e va via. Io non so chi è questo, non so di che ditta è, e mi trovo sto Rolex in mano. Tanto me lo tengo, sono venuto su, parlo con mia moglie, questa è, io cosa fa? Ma dice, cerchiamo di venderlo da un'ora in vigile e dare in beneficenza, con l'aiuto di una signora che vive a Vipiteno, di lingua, di gruppo etnico tedesco, sposata con un italiano, è andata da un orefice con sto mio Rolex, si è fatta dare delle lire e io le ho dato in beneficenza. Questo per dire, ma immagina quando devi fare votare sì per l'autostrada, cambiare la legge sulla flat tax, dietro ci sono miliardi di miliardi che sono difficili da capire. Io non sarei in grado di capire questi marchingegni, perché e qualche economista è serio e qualche economista si lascia andare, poi c'è la via di mezzo, poi ogni progetto. Com'è possibile che abbiamo per esempio dei soldi già ricevuti e non spesi? E diciamo che c'è bisogno di spesa per infermieri che non ci sono e camerieri che non ci sono, e abbiamo dei soldi lì, perché uno dice, ma perché non si sono spesi? Perché la burocrazia ma in tanti anni, io alla fine della guerra avevo 10 anni, no? Io da allora sento che bisogna cambiare, snellire, non cambia mai nessuno. Come è possibile che il 50% dei malati calabresi va a finire a San Raffaele? È una cosa pazzesca, non è incredibile. Ma è altro che pazzesca. Adesso arrivano i medici cubani in Calabria. È notizia di oggi. Salsa. Anche i medici cubani o anche le persone che arrivassero in Calabria, alcuni resteranno integerrimi e bravi, altri si staranno a influenzare, perché uno ha l'impressione che non è impotente di fare qualche cosa da solo. Cosa contiamo noi singolarmente? Cosa contiamo? Niente. Dice, ma è il diritto del voto. Tanto siamo poco informati, siamo un po' schifati da tutti, qualche volta non votiamo, qualche volta votiamo, qualche volta cambiamo, la strada nuova, la strada vecchia. Però abbiamo la sensazione che il nostro parere di cittadini, ma voi vedete che una cosa, ho due amici qua che hanno avuto un problema personale, l'aeroporto di Bolzano, no? Per un problema, voi immaginate questo problema qui in rapporto alla guerra Russia-Ucraina, allo Yemen o all'Afghanistan, eccetera. Però per chi ci vive lì è un problema. Perché sentono il rumore delle 6 di mattina, cioè già lì c'è un casino. Immaginiamoci, trasferiamo questo problema in altri problemi della città, trasferiamo i problemi nel paese, trasferiamo i problemi nelle zone di confine in cui c'è. Noi ci è andato bene perché la regione del Donbass è come l'Alto Adige. Il Donbass era russofone, l'Ucraina bombardava il Donbass dal 2014, non lo sapevamo, no. Gli ucraini bombardavano gli ucraini viventi in questa roba qua. Se succedesse che l'Austria bombarda, che l'Italia bombarda il Sud Tirolo, ci sembrerebbe impossibile, ma la situazione è analoga. Tutto questo per dire che i problemi sono enormi, quindi io non ho soluzioni facili da proporre. Mi indigno soltanto che la gente non si indigna di essere presa per il culo. Questo non ho proposto, perché sarei ridicolo che io, che mi occupo di pancreas, propongo soluzioni politiche, economiche, di cui sono assolutamente ignorante, non mi permetterei mai. E rispetto a quando dico, ma i politici sono noi, i politici li eleggiamo noi, i politici hanno i difetti che ha la popolazione normale. Me compreso. Io sono indignato solo che non si pensa e non si accetta, o si rifiuta. Uno vuol pensare, mi sono d'accordo con la Russia, mi sono d'accordo con la flat tax, sapendo esattamente di cosa si tratta, mi informo prima, formo una mia opinione, sarà giusta, sarò meritorio per me, sarà sbagliata, pagherò anch'io le conseguenze, basta che sia una cosa così, non mi va quello che è tutto lo stesso, e tutti si lamentano dei politici, ma insomma, al mio circolo tennis non c'è uno che legge il giornale, tranne la Gazzetta dello Sport, la prima pagina. Questa è una cosa, se pensiamo sempre che siano gli altri a dover fare, però siccome è difficile, nessuno ha la ricetta, almeno cerchiamo di renderci conto e soprattutto di essere, se possibile, meno aggressivi col prossimo, più rispettosi del prossimo, perché non è detto che la verità sia unica in tutto, ci può essere delle cose in cui i Fratelli d'Italia dicono una cosa giusta e uno può darsi che ci sia una cosa giusta che la dice anche Fratoianni, che ha solo l'1%. No, ma Manzoni, che l'ha detto in un famosissimo aforisma, non c'è nulla, nessuna verità può essere tagliata in due in modo che una non abbia parte dell'altra, la verità non è in mezzo, la verità è frastagliata, e in mezzo ci siamo noi. Quindi comportarci civilmente, educatamente, cercando di non rubare in medicina, cercando di fare i galantuomini e non soltanto quelli che prendono soldi, questo è quello che possiamo fare noi, è risvegliare il problema, cercare di svegliare le coscienze, esattamente quello che mi proponevo di fare, perché quando sono arrivato alla fine io non pensavo di arrivare a una fine così pessimista, pensavo di arrivare a una fine più benevola, e mi sono accorto che invece non è così, perché se la storia, io ho parlato di un intervallo di 2000 anni, ma la storia scritta rispetto a oggi è fatta di 7000, 5000 anni, 3000 anni prima di Cristo, Sumeri, Babilonesi, eccetera, già civiltà enormi costruite sul sangue di poveracci, perché voi immaginate per costruire una piramide quanti milioni di morti ci sono stati, non ci si ricorda dei morti, ci si ricorda della piramide, no? Allora, 3000 anni prima, 5000 anni, in 5000 anni bisogna riscontrare che abbiamo fatto dei progetti incredibili, la Samantha commovente che torna giù dopo 6 mesi, ha fatto il giro, abbiamo beccato un sasso di Giove straordinario, però c'è ancora che la gente muore di malattie, muore per non è curato, la Calabria che deve andare a Milano per farsi fare anche quando non è necessario, ma la cultura è tale che il povero calibro, perché il ricco calibro sa fare, il povero calibro non si fida della sua realtà, perché sa che per avere qualsiasi cosa deve corrompere, deve pagare il pizzo, io mi fanno una pena, non è che mi danno fastidio i meridionali di quelle regioni lì, almeno mi fanno pena, perché è una realtà, se uno è integerrimo e sta con la schiena dritta corre il rischio di essere ammazzato, questa è la verità. Grazie.